Salva Danaio. Sei minuti dopo le 12, buona giornata da Irene Zerbini. Si apre tra poco l'anno accademico, sono molti giovani in ansia, non solo per il test d'ingresso. Si è aperta la caccia all'appartamento o alla stanza addirittura. Pensate che solo a Milano ci saranno migliaia di persone in più che in città dovranno dormire, perché se 33.000 candidati si sono iscritti ai test d'ingresso, qual è la percentuale di persone fuori sede che si guadagnerà un posto? È stato un boom di richieste alla statale, alla Bicocca. Situazione invariata invece in Cattolica. Un'impennata di richieste al Politecnico, poi c'è la Bocconi. Solo qui a Milano. Immaginate questo fenomeno moltiplicato per tutte le città che hanno un ateneo e capirete perché il mercato degli affitti sia decisamente proficuo. Dunque in Italia gli affitti sono già cari per le famiglie, ma per gli universitari lo sono ancora di più, perché ondeggiano dai 350 ai 600 euro al mese per una stanza, a volte per un letto. I contratti in regola in questo campo sono pochissimi e vorremmo discutere oggi di come arginare questo fenomeno. Ci sono anche delle note positive, nel senso che la tendenza alla legalità, la strada della legalità è stata intrapresa in questi ultimi anni, cioè 30 anni fa si stava peggio naturalmente, ma ne discuteremo tra pochissimo a Salva Danaio con i nostri ospiti e soprattutto con voi. 800 24 0024, il numero di telefono. Qualche aggiornamento sui mercati ora. C'è un ritorno in area positiva per Piazza Affari, perché gli indici sono stati decisamente altilenanti in Europa. Ora il FTSE MIB ha superato la parità, sta guadagnando di pochissimo, lo 0,07%. Anche Parigi e Francoforte approdate in area positiva. L'Europa si era allineata a Wall Street e Tokyo e aveva avviato la seduta questa mattina in territorio positivo, scommettendo su un prossimo intervento della Fed a sostegno dell'economia americana. E poi c'era stata un'inversione di tendenza. Ora gli acquisti sono a Piazza Affari, sui bancari, ma non solo. E Buzzi Unicem è il primo titolo delle blue chips che sta trainando il listino milanese. Realizza invece su Finmeccanica e Azimut. Intanto l'euro ha superato la soglia 1,25 dollari, si conferma forte contro il dollaro sui massimi da inizio luglio. Siamo a 1,25,64. Concludiamo questa pagina, i mercati torneranno poi alle 14.30. Torniamo a parlare di affitti in nero per farci anche un'altra domanda. Si era tanto discusso di cedolare secca quando era stata introdotta 2 anni fa. È servita ad arginare il fenomeno dell'illegalità nel campo delle locazioni? Quali sono i vostri suggerimenti? Cos'è che potrebbe rivelarsi davvero efficace per fare emergere il nero? Ditecelo anche con i vostri messaggi SMS al 349-238-6666. C'è qualcosa di positivo che è stato fatto anche in ambito d'affitto e tra poco vi racconteremo anche cosa. Ma innanzitutto vorremmo dare delle cifre e capire l'entità del fenomeno. Quanti sono gli appartamenti in nero in Italia? E lo chiedo a Cristiano Dall'Oste, un esperto del Sole 24 Ore sul mercato immobiliare d'affitti. Innanzitutto, ciao Cristiano, benvenuto. Buongiorno a tutti. Quanti sono secondo te gli appartamenti in nero, anche se è una domanda un po' paradossale, no? C'è già una risposta. Diciamo che una risposta definitiva è impossibile, perché essendo in nero ovviamente non se ne conosce il numero. C'è però una stima che aveva fatto il Sole 24 Ore ormai un paio d'anni fa, che diciamo ipotizza che siano circa 500.000 in tutta Italia. 500.000 è un numero molto grande. Su un totale di unità immobiliari, diciamo, esistenti nel nostro paese, leggermente superiore ai 30 milioni. Queste sono quelle che risultano in catasto. Come si arriva a questo numero? Si arriva perché per la prima volta, su iniziativa dell'allora ministro Tremonti, un paio d'anni fa, furono incrociati i dati delle dichiarazioni dei redditi, in cui ogni proprietario di immobili deve dire come usa la propria casa, quindi se è abitazione principale, se è tenuta a disposizione, quindi se è vuota, se è affittata e così via, con i dati del catasto. e si vide chiaramente che le abitazioni che risultavano essere affittate erano in realtà meno di quelle che, secondo l'Istat, ospitavano famiglie che vivono in affitto. Quindi è evidente che tra lo scartamento... Ma alcuni magari regalano la locazione. Ci sono sicuramente i fenomeni del comodato, ma di questo si era tenuto conto. Teniamo conto che poi... Scherzo, naturalmente. No, ma è un dato reale. Teniamo conto che molti... 500.000 è una cifra che sembra ottimista rispetto a valutazioni fatte da altri. Cristiano, sentiamo per esempio cosa ne pensano gli inquilini e saluto a questo punto Aldo Rossi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Aldo Rossi è il segretario nazionale responsabile dell'ufficio legislativo del SUNIA. Quanti sono gli appartamenti in nero in Italia secondo le vostre stime? Ma il balletto delle cifre non mi interessa. Io direi che anche dall'altra facevamo un riferimento al complesso delle unità immobiliari. Ora, se consideriamo che l'80% circa sono proprietari diretti della loro abitazione, quindi perché utilizzano la loro abitazione come prima casa, è evidente che semmai il raffronto lo dobbiamo fare col numero di locazioni, e quindi già quel dato di 500.000, che a mio avviso è approssimato per difetto, è un dato abbastanza eclatante rispetto al numero complessivo delle locazioni che sono in qualche modo certificate. Quindi io francamente credo che siano di più di 500.000, e dico subito, rispetto alla prima parte della sua introduzione, che non mi sembra che l'introduzione della cedolare secca abbia fatto emergere molte situazioni dal nero, dall'irregolare al normale, insomma. Ha parlato di balletto delle cifre ed è proprio così, visto che è difficile quantificare il fenomeno, è innegabile che in Italia il numero di appartamenti o di unità immobiliari, poi quando parliamo addirittura di affitti per gli universitari, dovremmo scomporre ancora di più queste unità, perché si affittano perfino i posti letto nelle stanze a cifre decisamente esose, anche se non sempre. Ci sono anche persone oneste, ci piacerebbe proprio in questa trasmissione sentire anche degli esempi positivi di inquilini che hanno trovato proposte di locazione oneste, allineate con le cifre del mercato, proposte eque e anche regolari. Ora voglio salutare anche l'avvocato Giorgio Spaziani Testa. Buongiorno. Buongiorno. Segretario generale di Confedilizia. Torneremo tra pochissimo sulla questione cedolare secca e su perché fino a questo punto abbia o meno funzionato. Era stata presentata come l'arma che avrebbe permesso di stanare gli affitti neri e di risolvere questa piaga. Secondo voi di Confedilizia, quanti sono gli appartamenti o le unità locate senza che poi l'affitto sia stato registrato? Questo è assolutamente impossibile da dire, secondo me, come è impossibile fare affermazioni sul sommerso in qualsiasi settore dell'economia. La parola stessa sommerso o nero, come vogliamo definirla, chiarisce il fatto che non è possibile quantificare. Peraltro aggiungo che in questa fase... Ma è un fase, fenomeno in crescita, secondo lei? È un fenomeno... Io direi assolutamente di no, anzi direi che possa essere in diminuzione, non fosse altro che per le pesantissime sanzioni, direi senza precedenti, che sono state introdotte lo scorso anno proprio contestualmente all'introduzione della cedolare secca, che quindi agiva come in termini di incentivo ma anche in termini di pesantissime sanzioni, e quindi chi si avventura nel settore del sommerso nell'ambito della locazione credo lo faccia in maniera davvero incosciente in questo momento, perché i riflessi sul proprietario sono davvero pesanti. Eppure c'è anche chi, pur essendo proprietario, ammette un innalzamento del fenomeno del nero e lo addebita ad altre cause. Non apriamo ora quella pagina, ma ci andremo tra pochissimo. Per esempio l'IMU. C'è qualcuno che ha detto che l'IMU sarebbe un incentivo al nero proprio perché insostenibile. Stiamo sulla possibilità di risolvere il problema del nero, perché arrivano i vostri stimoli, i primi via SMS al 349 238 6666. e ci dite: servono nuove tipologie contrattuali. Questo ce lo segnala Luca. Più brevi del 4+4. E serve anche un modo di registrazione di disdetta più facile, meno bizantino. C'è la tassa che si paga annualmente in questo momento. Voi cosa ne pensate? 800 24 00 24. Cristiano Dell'Oste, chiedo scusa per aver variato il tuo cognome. E, una tipologia contrattuale più breve di questo 4x4 a cui sono ancorate la maggior parte delle locazioni in Italia, secondo te avrebbe un effetto benefico? Ma diciamo che contratti più brevi per le esigenze temporanee in realtà esistono già. È indubbio però che se pensiamo per esempio agli studenti, qui effettivamente per un ragazzo che comincia l'università, sì, ci sono le formule dei contratti appunto dedicati studenteschi, che sono poi contratti a canone concordato, peraltro non sono molto diffusi, e quindi la sollecitazione ad avere una flessibilità contrattuale maggiore forse non è sbagliata. Bisogna anche dire che il 4+4 quando è nato aveva anche la sua ragion d'essere. È nato anche a tutela dell'inquilino. Certo. Perché gli dava una prospettiva di abitazione di medio-lungo periodo. C'è da chiedersi quanto nella società attuale, con i giovani che spesso hanno impieghi precari, con gli studenti che magari hanno una mobilità molto elevata, quanto questa formula sia effettivamente adatta. Questo sì. Un altro stimolo degli ascoltatori è poter detrarre l'affitto pagato. Questo potrebbe essere la misura, insomma, che spingerebbe gli inquilini a pretendere che la situazione di nero venga regolarizzata, perché spesso, soprattutto quando si parla di un'utenza particolare come quella universitaria, che in genere ritiene di dover stare in quella città, in quella situazione per un anno o poco più, chiaramente l'interesse a intraprendere un contenzioso o una causa è veramente minimo. Se l'inquilino avesse la possibilità di detrarre l'affitto, ci segnalano gli ascoltatori, sicuramente in qualche modo sarebbe spinto a battere i pugni sul tavolo anche di fronte al proprietario. Ma è proprio così? Questo potrebbe essere un incentivo per voi inquilini, Aldo Rossi? Ma sicuramente sì, è una nostra vecchia proposta, credo condivisa anche dagli amici delle associazioni della proprietà. C'è un problema sostanzialmente di incentivo alla locazione che vale per il proprietario come deve valere per l'inquilino. Noi abbiamo fatto una proposta molto semplice che dice vanno incentivati, cosa che non è avvenuto purtroppo né con l'IMU né con la cedolare secca, i proprietari che affittano ad un canone contenuto, perché poi l'altro problema è questo qua, oltre che l'evasione. Uno può anche essere regolarissimo il proprietario, però se a quattro studenti chiede 1.500 euro per fare il quartiere periferico di Roma o di Milano, è evidente che c'è un problema anche di entità dell'affitto. Quindi noi diciamo ai canoni concordati si dia il massimo di agevolazione fiscale per i proprietari e nello stesso tempo si aumenti la detrazione del conduttore. Questo non sembri una proposta fuori dal tempo e fuori dalla realtà in un momento come questo. Chi è il conduttore? Aldo Rossi, chi è il conduttore? Il conduttore è l'inquilino. Ma specifichiamole, perché questa terminologia familiare per voi spesso è. Dunque, il conduttore, le detrazioni a favore dell'inquilino si aumentino, dice lei. Assolutamente, e anche per creare un intreccio tra le due posizioni, cioè e tra gli interessi è evidente di avere interesse a poter detrarre l'affitto, e quindi questo per lui è un vantaggio reale. Lo ha dimostrato per esempio la detrazione sui lavori, che ha fatto emergere dal nero molte situazioni. La cedolare secca invece, essendo unilaterale, non mi è sembrato che abbia fatto tutta questa effetto immersione. Teniamo conto anche rispetto a quello che diceva. Facciamo un bilancio a questo punto su questa cedolare secca, Cristiano, introdotta nell'agosto del 2010, forse non è partita nel modo dovuto. Cosa prevedeva e cosa poi è effettivamente accaduto? Sì, diciamo che la cedolare ha avuto anche una gestazione molto lunga, perché era inserita nel decreto legislativo sul cosiddetto federalismo municipale, quindi poi è diventata operativa soltanto ad aprile del 2011. Sì. Sostanzialmente come funziona? Anziché pagare sui redditi che io ricavo da un affitto, diciamo di una casa, perché riguarda solo le locazioni abitative affittate a privati. Allora, quindi in questo caso addirittura gli studenti... Sì, certo, gli studenti rientrano pienamente nella possibilità di beneficiare della cedolare. Perché un ascoltatore ci diceva che fanno parte di una tipologia diversa e non possono dunque richiedere la cedolare secca. Sono locazioni abitative. E il punto forte della cedolare è che appunto anziché pagare su questi redditi la normale IRPEF ad aliquota marginale, che quindi può variare dal 23 al 43%, io pago invece un'aliquota fissa che è del 21% per i contratti a canone libero e del 19% per i contratti a canone concordato. Diciamo intorno al 20%. Sì, sostanzialmente sì. Un'aliquota fissa intorno al 20%, questo doveva rivelarsi in qualche modo conveniente. E poi c'era la parte che riguardava gli inquilini. Attenzione, non è finita qui, perché questa aliquota, oltre ad assorbire l'IRPEF, assorbe anche le addizionali all'IRPEF, quindi comunale e regionale, l'imposta di bollo e l'imposta di registro. Quindi lo sconto viene ad essere abbastanza sostanzioso per il proprietario. Sulla carta almeno. Sulla carta, ma anche nei fatti. Poi ci sarà da chiedersi perché è stata fatta da meno persone di quelle che aveva preventivato il governo. Doveva ma far entrare 2 miliardi e 6 nelle casse dello Stato. Esattamente. Poi se andiamo a vedere cosa è successo nel 2011 con i versamenti di imposta, vediamo che sostanzialmente, considerando che il saldo viene pagato adesso in questa fase, quindi i dati non sono ancora proprio definitivi, difficilmente... Più o meno, però una tendenza c'è. Non si andrà sopra il miliardo. Molto lontana dagli obiettivi che si era prefissata. Ora ci sarebbe da capire perché i proprietari di casa non sono corsi a beneficiare della cedolare secca, che tra l'altro prevedeva anche la possibilità per l'inquilino di denunciare il proprietario che non gli avesse proposto un affitto regolare. Certo. E in cambio... E questo è un altro punto dolente, questa possibilità dell'inquilino, perché la norma era ed è tuttora insomma molto, molto rigida, cioè se c'è un contratto d'affitto non registrato oppure un contratto d'affitto che è stato registrato ma per un canone mensile più basso di quello reale, o ancora se è stato registrato un finto comodato, cioè se io ho fatto finta di darti in prestito la casa, l'inquilino può denunciare il proprietario e ha diritto per 4 anni rinnovabili di altri 4 a un affitto bassissimo, perché è commisurato praticamente al triplo della rendita catastale, che vuol dire, detto in soldoni, tra il 70 e l'80% in meno rispetto ai valori di mercato, quindi i 1000 euro diventano 300 o anche 200. Perché questo non ha funzionato? Perché il meccanismo è complesso, perché è ancora in fase di rodaggio. Forse possiamo anche sentire cosa dice il sindacato inquilini su questo. E anche perché quegli inquilini che hanno fatto ricorso a questa possibilità spesso si sono trovati con dei rapporti proprio personali talmente deteriorati che il padrone di casa in qualche modo ha preferito mettere la casa sul mercato, venderla pur di non aver più a che fare con questa persona che l'aveva denunciato. Ci sono anche casi peggiori. Aldo Rossi del Sunia: perché gli inquilini non sono corsi in massa a denunciare quelli che propongono loro un affitto in nero? Ma io dico, c'è stato un certo ricorso a questa azione, c'è stato intanto probabilmente anche un gap informativo, non da parte della stampa, perché devo dire che l'introduzione del suo collega Cristiano Chiara assolutamente è in linea con un forte impegno che tutta la stampa ha messo nell'illustrare queste nuove normative, se ne è parlato per tanto tempo. Quindi, però evidentemente non c'è stata la sufficiente ricezione da parte degli inquilini, ma noi abbiamo fatto delle azioni, devo denunciare altri due aspetti. Uno è che purtroppo, lo diceva prima Giorgio Spaziani Terza, il nero e il sommerso ha diversi modi di ammantarsi e soprattutto spesso sfrutta, abbiamo detto gli studenti, ma direi anche i lavoratori extracomunitari, sfrutta situazioni in cui la denuncia da parte dell'inquilino è molto rischiosa, è molto precaria la sua posizione e quindi si preferisce subire una certa... Sì, tacere e andare avanti nel caso degli studenti e non rischiare controlli d'altro tipo nel caso di lavoratori stranieri. Di una procedura giudiziaria magari lunga, considerati i tempi della nostra giustizia, che qui però posso tranquillizzare, nel senso che se il conduttore l'inquilino ha un motivo per potersi avvalere di questa normativa, chiaramente va esaminata attentamente la sua situazione, il suo contratto, il suo non contratto in certi casi, può avviare la procedura con una semplice ricognizione della sua situazione e una comunicazione al proprietario che intende avvalersi di questa norma. Quindi non c'è un'azione giudiziaria in linea di massima da fare. Poi ci sono problemi magari... Cioè l'inquilino può informare il proprietario che dal mese prossimo, invece di pagare 900 euro mensili, ne pagherà 140 perché ha fatto i conti col valore catastale dell'abitazione, dopodiché sarà il proprietario che può rivalersi contro questa decisione o decidere invece di adeguarsi. Sono molto coraggiosi e informati comunque gli studenti, lei l'ha nominato come categorie, diciamo così, a rischio, però in realtà molti hanno intrapreso questa strada. E, per quel che riguarda invece i proprietari, perché questa cedolare secca che avrebbe dovuto in qualche modo avvantaggiare anche i proprietari non è stata in realtà amata, non è una strada che molti hanno intrapreso? Avvocato Giorgio Spaziani Testa, qui diamo la voce a Confedilizia. Guardi, noi su questo abbiamo una posizione un po' diversa, che è basata sui fatti e sui numeri. La cedolare, secondo noi, secondo quello che abbiamo verificato, è stata applicata nel primo anno sì. di sua vigenza quasi esclusivamente per lo più da coloro che stipulavano nuovi contratti, mentre molto poco è stata applicata da parte di coloro che avevano contratti in corso. Questo per un motivo molto, semplice, per una complicazione notevole del meccanismo che era prevista per coloro che avevano dei contratti già in essere. Questo per motivi tecnici, cose evitabili, altre no, per esempio il fatto che la cedolare è entrata in vigore in corso d'anno e quindi l'Agenzia delle Entrate ha dettato delle regole abbastanza complicate per chi aveva dei contratti in corso. Quindi molto spesso chi aveva dei contratti in essere ha rimandato la cosa al 2012. Però questo, mi permetto di intervenire su quello che è stato detto prima, non vuol dire aver tradito le aspettative dello stesso governo, perché se noi vediamo il governo di allora, se noi vediamo le previsioni di gettito, lei ha fatto le cifre giuste, ma gran parte di quella cifra, circa 2 miliardi e mezzo, si prevedeva da parte del governo che entrasse da parte per effetto di applicazione della cedolare per i contratti in essere, ed è lì che è mancata la cosa, mentre circa mezzo miliardo di euro si prevedeva che entrasse per i nuovi contratti, per l'emersione. Quindi si può tranquillamente sostenere, ovviamente è da verificare, non lo si può ancora fare, che tutto ciò che è entrato finora sia o emersione di nero o nuovi contratti di locazione, cioè gente che ha deciso di investire nell'immobiliare e quindi applicare la cedolare. Quello che è mancato, come dicevo, è proprio l'applicazione per i contratti in essere, per un meccanismo di complicazione, sì. E questo mi dà lo spunto per ricordare che c'è tempo fino al 1 ottobre del 2012 per inviare raccomandata all'inquilino in relazione al cedolare. Cioè c'è stata un'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate dedicata alla cedolare che ha allargato i casi in cui il proprietario può sceglierla. E tra poco torneremo anche su questo aspetto tecnico grazie a Cristiano Dell'Oste. Prima però vogliamo sentire, e i vostri stimoli sono tantissimi, quelli che via SMS ci segnalano situazioni di irregolarità, ma ci segnalano anche, visto che le case non si muovono, come sintetizza un ascoltatore, semplicemente controllare le utenze domestiche o citofonare ai campanelli dei condomini ed entrare a vedere se le persone hanno un contratto d'affitto. Sembra insomma che gli ascoltatori ci dicano i controlli potrebbero essere ben più facili di quello che appare sulla carta. Il fenomeno si potrebbe contrastare. La Guardia di Finanza a Roma, proprio sul tema degli universitari, ha fatto anche qualcosa di più. Ne parleremo tra poco, ora il meteo. Salva Danaio. Questo è Salva Danaio, al microfono Irene Zerbini. Stiamo parlando di affitti in nero, cosa fare per l'emersione. Qualcuno di voi vuole darci un esempio che arriva dall'estero? Marco, buongiorno. Pronto? Buongiorno, mi sente? Sì, benissimo. Marco, ci dica, qual è la sua Pronto, proposta? Buongiorno, sì. Ecco, io sono molto contrariato anche con il signor Zerbini, che afferma che non si può individuare... La signora Zerbini sarà io, è contrariato con me, giusto? Prego? È contrariato con me. No, col signor Zerbini che prima ho ascoltato, mi sembra un po' una barzelletta quando dice che non si può neanche calcolare, ha parlato di 500.000 affitti su 3 milioni che sono in nero, e non si può neanche stimare, io dico si può stimare, e dico, possibile che è un discorso solo culturale italiano il fatto che non si possa identificare queste persone qui che affittano anche monolocali, cantine, è così, non si può identificare quando è un pezzo consistente dell'evasione in Italia che è molto elevata, soprattutto al sud, si arriva a punte del 40%. Beh, non reale. Solo al sud, dovrebbe fare un giro per Milano, sì. Tra questi ben pensanti milanesi settentrionali, mi ci metto anch'io. Voi che parlate scusi. E vedrà che affittano degli appartamenti, Marco, sono affittati appartamenti qua, anche quando si parla del problema sicurezza in via Padova eccetera, a stranieri ci vivono dentro in 10, in 12, naturalmente si punta sempre il dito sulla mancanza di sicurezza data dalla presenza di questi extracomunitari, ma mai nessuno che vada a controllare chi li sta sfruttando, 300 euro al mese ognuno a testa, e si sta facendo in queste situazioni, in queste catapecchie che spesso non ha nemmeno gli allacciamenti, 3-4 mila euro al mese, per cui non parliamo di evasione solo al sud, e glielo dico purtroppo con l'accento nordico che mi porto, perché siamo molto veloci noi del nord a additare gli altri, ma ne succedono di cose da queste parti che dovrebbe notare. Comunque lei ci voleva dare l'esempio di uno, di un altro stato, di uno stato europeo, ci dica qual è questo sistema che lei vuole portare a esempio. Dobbiamo lasciare spazio anche agli altri, Marco, forza, venga al punto. Mi permetta solo di concludere e dire, dato che voi parlate spesso di tecnicismi, di trazioni, eccetera. Ecco, copiare pari come c'è in Germania. Cioè, come? C'è in Germania. Cioè? Molto, grazie. No, ma scusi Marco, com'è in Germania? Sì, no, non lo so neanch'io, mi permetta. Voi che siete tecnici... Va bene, grazie Marco, grazie. Andremo a cercare questo stimolo se qualcuno ha avuto l'occasione di affittare in Germania, può forse colmare questa lacuna. Siamo rimasti così curiosi di conoscere questo metodo. Il numero verde 800 24 00 24, da comporre per i vostri suggerimenti. Alberto, buongiorno. A Gianluca, scusate, ho sbagliato nome. Gianluca, da Pistoia. Buongiorno, sì, io volevo segnalare alcune complicazioni, diciamo, che ci sono state, che ci sono nell'amministrazione della cedolare secca. Sì. Primo, la rivalutazione Istat va comunicata, la rinuncia alla rivalutazione Istat, che è propedeutica al beneficio della cedolare secca, va comunicata con raccomandata, mancando la quale si decade dal beneficio. In un primo momento non si sapeva nemmeno se poteva essere scritto nel contratto questa rinuncia, e quindi in questo modo derogare all'obbligo. Scusi, può parlare in termini... Scusi, Gianluca, Gianluca sta facendo un monologo. Gianluca, mi sente? Sì. Che lavoro fa lei? Io, niente, sono proprietario di due appartamenti. Può parlare con una terminologia che sia accessibile ai più? Dunque, innanzitutto, la rinuncia di valutazione Istat a cosa si riferisce? Allora, intende all'aumento previsto dall'Istat? Occorre rinunciare alla rivalutazione Istat del canone di locazione. Sì. Se non si manda questa raccomandata, certo, e se non si manda questa raccomandata, dice, si perde di fatto il beneficio. Non si comprendeva se, scrivendo sul contratto firmato dal locatore e conduttore che il proprietario avrebbe rinunciato alla rivalutazione, questa rinuncia scritta e concordata in un contratto registrato poteva essere equivalente alla rinuncia per raccomandata. Poi ogni anno bisogna andare all'ufficio del registro, presentare un modello, mi pare il modello 69, in cui si conferma la rinuncia alla cedolare secca. Quindi secondo lei è troppo complicato, anche per questo non ha funzionato. Ringraziamo Gianluca da Pistoia, 800 24 00 24. Il tema dei controlli è molto sentito da parte dei nostri ascoltatori. E allora vorrei segnalarvi un'iniziativa della Guardia di Finanza e in concomitanza con l'apertura dell'anno accademico ha riguardato però l'Università di Roma. Abbiamo aperto con i dati su Milano. Ebbene, la Guardia di Finanza è andata in segreteria, proprio come le matricole, nelle segreterie di 3 Atenei Romani, La Sapienza, Tor Vergata e Roma 3, e ha chiesto nomi e indirizzi di tutti gli studenti fuori sede, circa 10.000 ragazzi. Ebbene, questo esercito di laureandi si è visto recapitare a casa un questionario in cui si chiede quanto a chi pagano questo affitto, se è regolare, e si prevedono perfino delle sanzioni nel caso cerchino di coprire il proprietario dell'immobile, sanzioni di 500 euro, questo per scoraggiare magari chi un po' intimidito, un po' per timore di perdere il posto letto, fosse spinto a non dire la verità. Questa è una delle iniziative che si potrebbe copiare, naturalmente abbiamo contattato la Guardia di Finanza per questa trasmissione, ma non sono stati disponibili a partecipare. Ora ci hanno segnalato il problema del tecnicismo della raccomandata per rinunciare alla valutazione Istat che prevede un aumento ogni anno calcolato secondo un certo criterio. C'è qualcuno che ci dice anche che purtroppo per i proprietari di casa ci sono altri problemi, perché se l'inquilino non paga il proprietario deve pagare le tasse lo stesso, e quando si prova a sfrattare un inquilino viene il mal di fegato. Questo è segnalato da Gianmario ed altri ascoltatori che dicono che le procedure di sfratto in Italia sono troppo lunghe e questo scoraggerebbe la regolarizzazione dei contratti. E così lo chiedo ad Aldo Rossi del Sunia. Ma io premetto che c'è un grosso problema oggi di sfratti per morosità. Questo è un dramma per gli inquilini, ma è un grosso problema anche per i proprietari che per diversi mesi non percepiscono l'affitto. Allora, torno a quello che dicevo prima. Alla base c'è un caro affitti che evidentemente non è sopportabile insieme alla crisi economica che c'è. Direi che lo sfratto per morosità è abbastanza rapido a cedere in Italia, e una volta ovviamente avviata o ottenuto il provvedimento di sfratto è chiaro che sarà portato in detrazione quel caro che non è stato percepito da parte del proprietario perché lo prevede la legge. Però io vorrei dire una cosa sostanzialmente, non entriamo nei tecnicismi, diciamo anche, lo dico all'amico Giorgio Stazziani Testa, qui i grandi nemici, non voglio scimmiottare molti, sono gli evasori, perché sono coloro che stanno mettendo in ginocchio il settore delle locazioni, stanno mettendo in ginocchio i proprietari onesti e gli inquilini che debbono pagare. Allora o si fa un patto complessivo di anche certezze che debbono portare evidentemente anche a una riconsiderazione di certe pretese di canoni molto elevati. Noi infatti diciamo che il canale dei canoni contrattati, quelli che contrattiamo noi, sindacati degli inquilini e i sindacati, le associazioni della proprietà, deve essere privilegiato rispetto agli altri settori, perché chi affitta a queste condizioni, a partire dagli studenti, evidentemente dà un contributo ad alleggerire la crisi sociale degli alloggi che c'è. Purtroppo questo non è stato capito, perché anche la cedolare secca ha ridotto la differenza tassazione del canone libero e tassazione del canone agevolato, e l'ha portato quasi ad un livello irrisorio. L'IMU non prevede nulla per i contratti concordati. Allora, in queste situazioni evidentemente c'è un'estrema difficoltà. E vorrei dire un'ultima cosa rispetto a quello che diceva Spaziali Testa prima. I proprietari avevano tempo sino a giugno del 2011 per poter regolarizzare le situazioni. Parlo di proprietari completamente in nero e non in regola. Da questo non è emerso nulla. Questo che era il senso della mia denuncia. È evidente che il primo anno di avvio della cedolare secca scontava una certa novità, però sta di fatto che se le tasse le seguono a pagare i soliti e chi sta in nero non emerge, è evidente che ci sarà sempre un appesantimento del settore. Grazie. Spaziani Testa, visto che è stato chiamato in causa più volte, rappresenta Confedilizia, c'è stato questo accenno da parte del rappresentante degli inquilini al ruolo sociale che svolge l'affitto e la possibilità di avere degli appartamenti in locazione, importantissimo naturalmente in ogni società. Ecco, lei avverte una contrapposizione quasi da amico nemico tra inquilino e proprietario di casa, o è una situazione in cui il dialogo può essere avviato? Ma no, assolutamente, il dialogo non solo può essere avviato, ma è stato già avviato, e su questo tema in particolare, quello a cui faceva riferimento l'avvocato Rossi, cioè quello dei contratti cosiddetti concordati, siamo in perfetta sintonia. Si tratta, lo ripeto, dei contratti che hanno canoni di locazione più bassi rispetto a quelli di mercato, perché previsti e fissati da proprietario e inquilino nell'ambito di fasce concordate a livello territoriale dalle associazioni. Questi contratti però sono stati uccisi, uso questa parola volutamente, dall'IMU, dall'introduzione dell'IMU sperimentale, perché non solo è vero c'era stata una scarsa divaricazione delle aliquote della cedolare secca, ma con l'IMU è stato veramente dato un colpo di grazia a questi contratti, perché con l'aumento della base imponibile del 60%, con l'aumento delle aliquote, i livelli di aumento di tassazione dei contratti a canone, quindi calmierato, hanno raggiunto cifre che neanche si riesce a scrivere, anche di oltre il 1000%. Cioè, lei sta dicendo non convengono più? Non convengono più, si è bloccato questo mercato del tutto. Perché cos'è stato fatto dal governo Monti? È stato fatto addirittura, io direi, un errore, non solo una cosa alla quale siamo contrari sia noi sia i sindacati inquilini, un errore nel senso che nell'IMU originaria era stato previsto un abbattimento a metà dell'aliquota, una riduzione a metà dell'aliquota prevista per l'IMU relativa ai contratti di locazione. Nell'IMU sperimentale, quella che è in vigore oggi, questa riduzione è stata prevista solo come possibilità, come opzione in capo ai comuni, opzione che i comuni non stanno sfruttando assolutamente, se non lievemente e in pochissimi casi. La conseguenza è una tassazione spropositata per questi contratti, notevole. È molto Prego. Chiaro quello che lei vuole sottolineare, avvocato Spaziani Testa, e naturalmente all'IMU sono state dedicate diverse puntate di Salvadanaio. Si apre una casistica decisamente complessa e che ha fatto sorgere diversi problemi d'equità. Noi per oggi vorremmo concentrarci sugli incentivi, sulla possibilità che, tutelando gli interessi e degli inquilini e dei proprietari di case, che, come abbiamo sentito, possono non essere in contrasto, e si possa in qualche modo in Italia far emergere il più possibile l'imponibile sommerso, che per quel che riguarda gli affitti dovrebbe più o meno ammontare a un calcolo che è stato fatto dal Sole 24 Ore e da Cristiano Dell'Oste. A quanto, Cristiano? La stima che si riferisce poi a quei 500.000 contratti, che rispondo anche a quello che diceva Rossi in precedenza, è sicuramente una stima prudenziale che avevamo fatto, quindi era un dato verosimile, a costo di essere magari un po' al ribasso. L'imponibile è nell'ordine dei 3 miliardi di euro. Poi ovviamente stiamo parlando, come sempre si parla in questi casi, di ipotesi. C'è però una cosa che mi trova molto d'accordo con quello che dicevano sia Rossi che Spaziani Testa, ed è cioè il fatto che ad oggi in Italia viene meno qualunque forma di incentivo per i proprietari ad affittare case a un canone contenuto agli inquilini, sia sulla base di accordi stipulati, sia sulla base di altri elementi. Viene meno il limite al caro affitti, sostanzialmente, quantomeno per i contratti nuovi. Poi è ragionevole pensare che molti dei contratti in essere proseguano così com'erano, ma chi stipula oggi un contratto per un inquilino non ha alcun incentivo né sul fronte dell'IMU né sul fronte della cedolare secca, dove le cose più o meno pari sono, ad applicare un affitto tutto sommato basso. Anzi, l'IMU di fatto comporta un grosso rincaro e quindi spinge a muoversi verso un canone che sia il più alto possibile, se non addirittura verso il nero. Tra pochissimo la voce a voi ascoltatori all'800 24 00 24. Dalle case passiamo ora alle strade per vedere la situazione del traffico. Salvadanaio. 48 minuti trascorsi dopo le 12, manteniamo le promesse. Alberto, buongiorno. Pronto? Finalmente, buongiorno. Scusi. Io devo farle però un appunto. Sì, certo, lo faccio. Nel senso che tutti le fanno complimenti per la trasmissione, le faccio, però essere un pochino più, spaziare un pochettino più tra tutte le problematiche relative alla Guardia di Finanza, che secondo me in alcuni casi voi date per scontato con azioni positive, ma che sono abusi sulla legge del diritto. Io sono un proprietario che fa contratti ed è la prima voce che sento in trasmissione a qualche minuto della fine della trasmissione. Meno male. La mia testimonianza. Beh, forse non ha ascoltato bene Alberto, perché hanno già chiamato. Ho abbastanza bene, ho sentito dire poi... però delle follie. No, che dica, rettifichi. Per andare nelle case senza mandati, nelle case io credo che sia un abuso. E non per quel che riguarda la mia posizione, io faccio regolare i contratti e tutto il resto, però credo che la legge come tale debba essere interpretata e la caccia alle streghe non serve a nessuno. Io mi sono ritrovato ad avere persone per 3 anni all'interno degli appartamenti che sistematicamente avrebbero potuto pagare l'affitto, non lo pagavano per la lentezza della legge italiana, per tutta una serie di intromissioni da parte dei servizi sociali e tutto il resto, e che fa sì, secondo me, che ci sia in Italia, che si dica, uno squilibrio totale tra quello che è il rapporto tra inquilini e proprietari. Non tanto, certo, alcuni proprietari faranno abusi perché magari preferiscono andare al nero, ma lì si tratta di un abuso. Però nella realtà dei fatti, se vogliamo stare con la legge, un proprietario oggi come oggi si prende in casa un inquilino e non sa come farlo uscire nel momento in cui diventa moroso. Questa è una segnalazione, Alberto, è una segnalazione che infatti hanno fatto altri ascoltatori via SMS che abbiamo letto, 349-238-6666, c'è stato segnalato proprio la lungaggine in caso di mancati pagamenti per liberarsi da un inquilino. Daniele, buongiorno, pronto? Pronto, buongiorno. Guardi, torna fagiolo quest'ultimo utente per quello che volevo dire io. Sì. E in effetti le faccio anche un complimento per quello che ha detto lei prima. Ha detto anche noi a Milano vediamo delle situazioni veramente barbare per affitto che strangola studenti, insomma extracomunitari, quindi non vuol dire che ci sono solo a Napoli o giù in Bassa Italia. Assolutamente, anzi. Cioè, dove c'è più prosperità spesso c'è una maggiore concentrazione anche di questo tipo di sfruttamento. Sì, sì, come tutti sappiamo al mondo c'è il buono e il cattivo dovunque, in tutte le situazioni. E in effetti io volevo dire che in Inghilterra ho sentito dire, ma mi piacerebbe che fosse approfondita anche da qualcun altro che magari ne sa di più su altri paesi, che ci sarebbero delle istituzioni, non so se private o pubbliche, che in cui tu, chiaramente bisognerebbe essere tutto in chiaro, portare i propri dati come uno che affitta, tutto in regola, diciamo, e poni, gli porti il nome di tutti gli inquilini che devono entrare, e se sono persone che non sono adatte perché hanno creato dei danni, dei problemi, non hanno pagato per un sacco di tempo da altre parti, viene fuori tutto, viene scoperto immediatamente, tu eviti di fargli un contratto, di prenderli nelle tue case che gli affitteresti, diciamo. Beh, guarda, quello che si fa spesso anche all'estero, si chiede il nome del precedente proprietario, questo ve lo dico per esperienza diretta, e si chiama il proprietario precedente a chiedere se la persona era, come dire, puntuale e corretta nei pagamenti, cioè con un atteggiamento che va al di là dei criteri fissati per privacy o altro, semplicemente un fair play, lo si utilizza molto nei paesi anglosassoni. Ci sono poi delle forme di incentivo, sono certa per il Lussemburgo, ho sentito dire sia così anche per la Germania, fiscale per quei proprietari di casa che affittano, cioè coloro che tengono la casa sfitta a un certo punto hanno un danno fiscale talmente elevato da essere spinti a mettere sul mercato l'appartamento, e anche questo naturalmente è un indice di civiltà sociale, visto l'emergenza alloggi che caratterizza l'Italia. Esiste qualcosa del genere in Italia? Beh, in Italia la tassazione tende normalmente a far pagare di più le case sfitte, questo sì, o anche le seconde case, le case tenute a disposizione, come si dice tecnicamente. Questo accade con l'IMU, dove peraltro in realtà, per un aspetto che adesso non andiamo ad approfondire nel dettaglio, ma diciamo che quasi la situazione viene un pochino sfumata rispetto a quella che era la tassazione delle rendite IRPEF. Ma al di là di questo, sicuramente anche la legislazione italiana fa pagare di più le case sfitte. probabilmente, se andiamo a vedere i volumi dello sfitto, in molti casi non è un incentivo sufficiente, un incentivo negativo sufficiente a portare queste case sul mercato. No, deve essere un danno che si sente sulle tasche. Se poi diciamo devi pagare 100-200 euro in più e ti tieni la casa sfitta e neanche lo senti, visto che i tuoi redditi sono ben maggiori, ovviamente non ha funzionato quel tipo di incentivo. Certo. Chiaro, stiamo andando a buon senso per non scendere sempre nel tecnicismo. Credo che le ultime due telefonate siano molto indicative anche dello stato d'animo dei proprietari corretti e ci fanno capire come in realtà quando si tocca il tema degli affitti si tocca comunque un nervo scoperto, perché ci sono chiaramente da un lato i proprietari che abusano e che potrebbero essere stanati anche con la collaborazione dei comuni, che potrebbero avere da parte, insomma, alla luce delle regole attuali, parte del gettito che venisse recuperato, e che molto spesso su questo punto non sono attivi. E però ci sono anche da parte dei proprietari in regola qualche difficoltà di gestione del rapporto con l'inquilino. Questo l'abbiamo sentito. L'abbiamo sentito ed è innegabile, perché sono moltissime le storie che si sommano in questa direzione. Avvocato Spaziani Testa, da parte di Confedilizia, quale sarebbe la strada da intraprendere per dare una soddisfazione al proprietario, quello regolare, quello che di notte vuole dormire, quello che non vuole avere nemmeno un euro di nero, che semplicemente vorrebbe affittare anche per, diciamo così, coprire le spese dell'IMU, ma non vorrebbe abusare? Quali sono le indicazioni da dare al governo, visto che la cedolare secca, insomma, si è rivelata insufficiente? Le indicazioni sono quelle, intanto, di ripensare l'IMU sperimentale, perché il settore che ha colpito è stato in generale quello degli affitti, compreso quello degli affitti a studenti universitari, e quindi il problema della fiscalità attualmente è centrale e bisogna intervenire sull'IMU, tornando perlomeno per i contratti cosiddetti concordati all'idea dell'IMU originaria, quindi di riduzione a metà dell'aliquota. Poi esistono, ed è un problema serio, da molti anni problemi segnalati dagli ascoltatori, c'è una difficoltà non solo in caso di morosità ma anche di finita locazione nel rientro in possesso degli immobili. Ma le chiedo uno sforzo, Spaziani Testa, quanti associati ha Confedilizia? Ma ne ha tantissimi. Ecco, mandi un messaggio ai suoi 230 associazioni territoriali. Mandi un messaggio ai suoi su coloro che, e sono certa ne ha, stanno per affittare questi posti letto, cioè, ci sono segnalazioni in continuazione da parte dei nostri ascoltatori a questi studenti che arrivano in città, che sono poi il futuro anche di questa Italia, e hanno intenzione di così affittarlo in nero. Mandi un messaggio ai suoi, perché non, come possono mettersi in regola? Per definizione quelli che si rivolgono alla Confedilizia di solito non sono di questa tipologia. Ma toglierei il di solito, perché necessariamente chi si affida ad un organismo per farsi assistere in queste operazioni non va certo nel nero, perché il nero non è accettato dalle nostre associazioni. Quindi il problema più Ma che lei altro prima è quello... ha parlato anche di sanzioni terribili, insomma, non solo in termini pecuniario. Cosa si rischia? Si rischia tantissimo, ed è stato in parte detto prima, si rischia anche che il contratto venga addirittura ricreato dal nulla con una durata stabilita dalla legge e con un canone molto basso, quindi il rischio per il proprietario è notevole, e questo noi lo facciamo presente ai nostri associati in tutta Italia, quindi da parte nostra non c'è alcuna possibilità che venga fatta passare sotto silenzio, certo, un atteggiamento di questo genere, ma a beneficio stesso dei proprietari, che poi ne avrebbero conseguenze negative, i danni maggiori. Grazie all'avvocato Spaziani Testa, grazie a Cristiano Dell'Osta del Sole 24 Ore, ad Aldo Rossi del Sunia. Massimo, lei in linea da Macerata, riesce a mandarci il suo messaggio in 10 secondi? Pronto? Cerco di farlo, buongiorno. 10 secondi. Guardi, una considerazione. Terrei duro sulla cedolare secca, è una grande innovazione che è arrivata dopo decenni di cose fisse. Diamole tempo, quindi, dice lei. Sì, diamole un pochettino di tempo, pur con tutte le sensibilità che si possono apportare intorno a queste cose. Grazie, rimane molto da fare dunque sulla strada degli affitti in nero. Torneremo a parlarne qua da Salvadanaio. Intanto da Irene Zerbini, buona giornata.